Buonasera a tutte, tutti e tutto, come dice Federica. Siamo all'ultimo evento della giornata. Sarà un evento molto colloquiale e informale. Noi non ci siamo neanche preparate. Questa è la situazione, ma in realtà abbiamo tantissime cose da dire. Allora, io avevo degli screenshot sulla rassegna dei libri di Angela Balzano, che è la persona attraverso cui noi ci siamo conosciute, cioè grazie ai libri di Angela ci siamo messi a chiacchierare un po' ed è alienato tutto. Però mi è venuta in mente un'altra cosa, grazie alla presentazione del libro Natura contro Natura che abbiamo fatto prima di Dario Li e Vincenzo Grasso. Mi è venuta in mente una cosa che mi riguarda personalmente, e cioè che per esempio io sono una persona che in realtà non direbbe mai, né scriverebbe mai un titolo come Per farla finita con la famiglia. Perché in realtà da questo punto di vista sono anche abbastanza tradizionale, mi piace la mia idea di famiglia anche tradizionale in cui sono cresciuta e credo in generale che al giorno d'oggi tagliare i ponti o passare il rasoio di Occam in maniera, come dire, netta a tutto quello che ci ha preceduto non sia la strada, come dire, più... Giusta non è la parola esatta, però nel senso io credo che anche l'essere umano non sia in grado in realtà di tagliare con la propria biografia, col proprio passato. E se poi tu glielo proponi in maniera netta, si pone sulla difensiva. Questo lo dico anche in termini di comunicazione, io faccio ufficio stampa. Quindi ogni tanto ci penso. E secondo me, dal punto di vista della comunicazione, questa cosa può essere un po', come dire, ti tiri la zappa sui piedi da sola. Però è una mia opinione. Detto questo, se io penso al concetto di natura, per tornare al libro di Dario, poi in qualche modo tutto tornerà di Vincenzo, la definizione più bella di natura, secondo me, ed è quello a cui io penso sempre quando la nomino, è un'espressione che c'è nel canto notturno del pastore errante per l'Asia di Giacomo Leopardi, che la definisce l'innumerabile famiglia. Questa è la natura secondo Leopardi, quindi un qualcosa che non è quantificabile e il cui numero, la cui quantità procede all'infinito, quindi è veramente infinita la natura di Leopardi. E questa espressione compare dopo un'altra che è la stanza smisurata e superba, cioè la poesia si apre con Leopardi che interroga la luna e gli dice: Che fai tu, luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. E allora cosa dice? Te ne stai lassù, ci guardi, guardi noi esseri umani che ci spacchiamo la schiena dalla mattina alla sera come dei cretini, che ci alieniamo, perché questa è la verità, già Leopardi ne parlava, nel lavoro, fatichiamo, lo facciamo senza sosta, senza senso e non sappiamo poi alla fine neanche perché lo facciamo. E cosa dice alla luna? Tu invece sai perché lo facciamo, tu forse intendi questo vagar mio breve, gli dice, no? Però non te ne curi e nel tuo non curartene forse c'è anche un segno di disprezzo, di prendermi pure in giro, no? E poi a un certo punto dice: Mentre tu te ne stai lì, io invece sono qui a ragionare con me stesso e di cosa ragiono? Della stanza smisurata e superba, che è la nostra condizione, il nostro mondo umano, quindi è smisurato, una stanza smisurata e superba, ok? Quindi siamo disordinati, non, cioè non siamo ordinati, no? Siamo geometricamente anche parlando, cioè non sappiamo qual è il nostro spazio, anche se lo definiamo tale, quel poco che facciamo del nostro spazio lo facciamo in maniera sbagliata e siamo pure superbi perché ci crediamo i padroni dell'universo, infatti questo torna anche in tantissime altre poesie. Quindi ragiono della stanza smisurata e superba e dell'innumerabile famiglia, questa natura, ok, che non ha numero perché è infinita. Se ce l'ha, è infinito. Allora, e quindi arrivando ad Angela, invece, lei ci scrive per farla finita con la famiglia e ci spinge oltre in maniera molto radicale verso un pensiero, come dire, le parentele postumane, ok? E già qui è abbastanza strano perché sul titolo è per farla finita con la famiglia, ma E poi ci poi sono ci le sono parentele le parentele. postumane che sono un qualcosa tipicamente familiare, e poi noi parliamo di sorellanza all'interno dei collettivi e quant'altro. E niente, questo per dire uno che secondo me la questione del linguaggio, poi declinata in termini di comunicazione, come dire, un po' pragmatica, cioè gli effetti della comunicazione, è importante e può avere delle conseguenze, secondo me, che, come dire, inficiano il progetto. Due, che ci sono modi, che una modalità di coabitazione o anche di pensiero alternativo non può imporre un concetto, comunque lasciando credere che debba essere così, cioè dobbiamo andarci cauci, altrimenti cauti, scusate, altrimenti rischiamo di essere superbi a nostra volta. Tre, prima di tutto questo, essendo che tu, come dire, hai un progetto digitale comunicativo importante che si chiama IVG, sto benissimo, vorrei chiederti, prima di arrivare alla questione della famiglia di Angela Balzano e quant'altro, di spiegarci come è nato il tuo progetto, perché noi lo conosciamo belle che fatto, è anche, diciamo, abbastanza famoso. Importante. Hai fatto un grandissimo lavoro e si vede come ci sei arrivata e cosa ha significato per te e cosa significa tutt'oggi. Grazie mille a tutti e a tutte e a tutte. Mi è stato chiesto all'inizio se avessi preferito parlare da sola o in dialogo. Ho detto in dialogo, adesso rimangio tutto. Avrei preferito fare il monologo perché abbasserò il livello della discussione, evidentemente, ma qualcuno questa responsabilità se la deve pur prendere. Grazie mille. Allora, no, ho preso appunti, poi li riprendiamo. Allora, io mi chiamo Federica Di Martino, per chi non mi conosce, sono una psicoterapeuta, lavoro nella salute mentale e nell'agricoltura sociale, quindi mi occupo di riabilitazione psichiatrica e agricoltura e reinserimento lavorativo di persone con disabilità psichica e o persone che hanno una condizione di misura cautelare, quindi facciamo produzione di olio biologico, farine, abbiamo ripristinato un mulino. Insomma, tutta una serie di cose. In realtà vorrei rispondere in una maniera molto alta, ma la realtà dei fatti è che il progetto di IVG abortito e sto benissimo nasce in una maniera estremamente pecoreccia, non la saprei definire in un altro modo. Tantissime persone che avviano dei progetti anche in maniera molto costruita, elaborata, con tutta una serie di social media manager, persone, no, alle spalle che seguono certi progetti, mi chiedono: ma quindi tu come hai fatto? In realtà nasce dal niente perché nel 2018 sono entrata nella fossa di Facebook e ne sono di fatto uscita più boomer dei boomer perché non so fare praticamente un cazzo, ma insieme a Elisabetta Canitano, partiamo dal presupposto: io nasco, ho quasi 40 anni nei collettivi, nelle reti, in quegli spazi in cui, no, molti di voi si ritroveranno. Si entrava per un incontro alle 7 di sera e si usciva alle 2 di notte perché la questione centrale era se il reddito universale dovesse essere di 2.000 euro, di 4.000 euro, e quindi si doveva capire se il logo di rifondazione poi doveva stare da una parte o da un'altra, ma diciamo il feedback, l'idea è un po' quella. Vedo sorrisi, quindi si ritroveranno molti di voi con rifondazione. Bene così. In realtà, vedi, comincio a collaborare con una serie di professioniste perché mi sono sempre occupata di salute riproduttiva. In particolare facevo una cosa molto banale nel 2017, chiamavo tutte le farmacie della provincia per vedere se avessero a disposizione la pillola del giorno dopo e quella dei 5 giorni dopo. Poi, in una maniera, diciamo, vorrei dire boriosa, ma la realtà è assolutamente ingenua, vado davanti a una di queste farmacie obiettrice e faccio un video dicendo di non comprare davanti a quella farmacia perché è una farmacia dove si pratica l'obiezione di coscienza e questa cosa non è possibile. Dopo 2 giorni mi arriva una telefonata di un avvocato perché mi vogliono denunciare, quindi io rilancio dicendo che le avrei fatti richiamare da un team dei miei legali. Questi legali non sono mai esistiti, ma mi sembrava un plurale molto molto intenso, no? Una cosa molto scenografica, quindi ho detto guarda, io faccio richiamare dai miei avvocati, che poi è diventato un povero Cristo Miguel Coraggio di Rete Lenford, che ancora oggi si appioppa tutte le mie disgrazie, però la farò chiamare dai miei avvocati, mi sembrava una cosa molto bella, molto intensa, e insieme ai miei legali, no, di fatto da sola con Elisabetta Canitano, che ringrazio sempre, ginecologa, presidente di Vita di Donna Onlus, che ad oggi è la persona che si occupa ogni giorno, è andata in pensione, ma di fare certificati telematici con firma autenticata a tutte le persone che ne hanno bisogno, con certificato d'urgenza, e lavora la Casa Internazionale delle Donne. Un giorno lei mi dice: c'è una pagina francese che si chiama IVG Je Va Bien Merci, IVG Ho Abortito e Sto Bene, in cui si raccolgono storie di donne che hanno abortito e che tutto sommato raccontano di un'esperienza positiva. Perché non la rifacciamo in Italia? Ok, capisco come si crea una pagina Facebook, perché non sapevo dei fatti neanche come si creasse. L'unica idea che ho è di rilanciare, visto che immaginavo, no, che la cosa sarebbe stata abbastanza d'impatto, dico non solo stiamo bene ma stiamo benissimo, perché così se la dobbiamo fare facciamola come Gesù Cristo comanda. E quindi nasce il VG Abortito e Sto Benissimo come grande contenitore per provare a riprendere quello che è stato che sono state le pratiche di autocoscienza degli anni 70, no? La raccolta storiografica della letteratura femminista, della saggistica degli anni 70, vedi per esempio Udi, che adesso si trova purtroppo a, diciamo, ricondividere robe di Terragni, arcilesbica, ma al tempo faceva dei lavori per cui raccoglieva storie ed esperienze di donne, e proviamo a vedere che cosa ne esce. Nei fatti l'unica cosa che ho fatto è stato mettermi in ascolto, perché il VG Abortito e Sto Benissimo è inizialmente diventato un contenitore di storie, quindi di persone che avevano bisogno di riappropriarsi della propria esperienza abortiva, perché nei fatti l'aborto in Italia è ancora un tabù. E riprendo questa parola per lanciare poi degli spunti che ci arriveranno dopo, non quelle minchiate performative del dire mestruazioni è un tabù, no, per poi rilanciare il Nuvenia ergonomico che ti costa 8,70 euro. No, è un tabù perché la gente si vergogna di parlarne, perché io oggi ho il privilegio di aver reso questa dimensione, che è stata la mia dimensione di vita, che è stata di estrema vergogna e solitudine, qualcosa di pop, di mainstream, di condivisibile, di lavorabile, ma nei fatti noi siamo ancora quelle chiacchierate nelle famiglie alle cene di Natale, siamo ancora quelle chiacchierate negli spogliatoi o al bar tra amici, siamo ancora quelle per cui oddio, ma tu lo sai che quella è una zoccola e quindi ha fatto quest'altro, ce la possiamo cantare, indorare per quanto vogliamo, ma sempre quello rimaniamo. E allora l'unica cosa che ho deciso di fare è scegliere di diventare un'interlocutrice politica, e poi magari vedremo anche come, di quella che era la mia storia, la mia esperienza, attraverso l'esperienza di tante persone. Ad oggi noi ci occupiamo di due punti a capo: raccogliere storie e testimonianze, fare accompagnamento e acquisto di presidi sanitari, per cui test di gravidanza, contraccettivi, accompagnamento al test di gravidanza, che ancora oggi è un momento che si vive in grande solitudine, perché poi arriveremo magari al tema della corresponsabilità maschile, perché prima si parlava, no, di questione specista, ma noi esseri umani, darò sempre questa notizia straordinaria, spero che vi teniate forti sulle vostre sedie, non ci ingravidiamo per gemmazione, è una cosa che ancora non avviene, quindi laddove ci sia la fecondazione assistita, la PMA, altri tipi di dimensioni, ok, ma in genere sia in due o in più di due diventa una festa, ma funziona che sia almeno in due, ma la responsabilità ricade sempre esclusivamente economicamente su un'unica persona. Questa persona però viene soltanto interpellata in quanto colpevole, mai come responsabile, no? Perché di una cosa si parlava prima, di questa stanza smisurata, questa stanza smisurata che difficilmente trova confini è l'assenza del desiderio, che è l'unica cosa che non viene mai interpellata. Tra i miei difetti c'è l'essere una psicanalista lacaniana, faccio ammenda, chiedo scusa a chiunque, però fondamentalmente resta, vedo già una risata disperata, vedo che... Ah? Dopo ci fermiamo 5 minuti, Salerno ti era piaciuta, parliamone. Ma il desiderio non viene mai interpellato, ok? Prima ho ascoltato proprio con una smisurata ammirazione, ho cominciato a leggere il libro di Dario e l'ho trovato difficilissimo, complicato, bellissimo, così come ho trovato complicatissimo e difficile questo libro che mi accompagna da anni, perché prima Mauro diceva una cosa fondamentale: le cose vanno studiate, non soltanto lette. Per essere studiate, lette, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di accompagnamento, c'è bisogno di scoprire cose che non si conoscono. E il desiderio è misconosciuto. Si parlava di naturalità, di quello che è contro natura. Si considera naturale il racconto di donne che hanno partorito 8 figli, che ne hanno abortiti altrettanto, che vengono picchiate quotidianamente dai mariti, che subiscono situazioni di violenza, che non possono scegliere sulle loro vite. Tutto questo viene considerato naturale quando non c'è niente di naturale se non si interpella il desiderio delle persone e dei soggetti. Quando io leggo sotto quei post in cui si parla della denatalità in Italia, il dramma della denatalità in Italia, che vi giuro, ora si parlava prima della positività del messaggio, ma se ci estinguessimo domani, devo dire, sto grande dolore e dispiacere fino a un certo punto lo proverei, c'è sempre quel commento sotto che a me manda i matti, che è: sì, ma se non ci date le scuole, se non ci date gli asili, se non ci date questo, allora noi figli come li dobbiamo fare? Tutte questioni vere, no? Perché interrogano il welfare, interrogano la politica, interrogano... Ma perché il desiderio non si interroga mai? Perché non si interroga mai il fatto che se io, anche che sono una persona che ha quasi 40 anni, se ci avesse tutte le condizioni necessarie e possibili, un figlio non lo vorrei e non lo farei? Perché questa cosa non è legittima? Perché non c'è la legittimità del desiderio? Perché tutto quello che è materiale, che è utile, no? Che è fruibile, allora vale nel mondo, e perché il mio desiderio è inutile? E allora è bugia. Abortito, e sto benissimo, nasce da una riappropriazione, da un'esperienza, nasce da una contaminazione politica, perché aggiungo una cosa, poi mi placo per lasciare spazio e riprendere poi i miei deliri. A volte ce la cantiamo e ce la suoniamo. Io avrò tanto piacere di parlare di quello che per me ha significato il mezzo social e quello che oggi io vedo dei mezzi social e del modo di trasporre, no? Alcuni messaggi di attivismo attraverso i social. Ma a volte corriamo sempre il rischio di cantarcela e suonarcela da sola. Quando io accompagno una donna ad abortire e quella donna mi riscrive per raccontarmi la propria storia dicendo può essere utile a qualcuno, oppure vorrei accompagnare qualcuno che ne ha bisogno su quel territorio, tu hai contaminato politicamente una persona che non avresti intercettato in un'altra maniera. Non è l'unico modo, non è il solo modo, è l'unico modo che però io ho trovato per recuperare, questo è uno spezzone personale, un pezzo di vita che mi è stato tolto, perché io quando ho abortito ero sola, non avevo consapevolezza, ma io ricordo proprio una sensazione di trattenere il fiato. Mi mancava il fiato, ho ripreso a respirare soltanto dopo, e quel corpo non esisteva, e quella è un'altra grande questione, perché il corpo diventa medicalizzato, il corpo degli altri, il corpo dei medici, il corpo di chi ti dà il certificato, è il corpo dello Stato, no? La statalizzazione, quanto ha inciso e quanto continua a incidere su quello che siamo. E io quel pezzo di storia non me lo ricordo più, non mi è mai appartenuto, e provo a recuperarne dei pezzi che sono dei posticci attraverso le vite degli altri, ma quello che mi è stato tolto molto nei fatti, non mi verrà ridato da nessun altro, e trovo che questa sia un'ingiustizia profonda che forse dovremmo provare a cambiare visceralmente rispetto alla riappropriazione del proprio aborto e del proprio racconto rispetto all'aborto e alle esperienze di vita. Ho risposto? Probabilmente no. Però no, la famiglia la lasciamo a parte. Arriverà. Esatto, tanto tornerà. No, certo, però la narrazione è fondamentale e in effetti uno dei modi per riapproparci dell'esperienza negata, del racconto che non abbiamo potuto fare, dell'esperienza che non abbiamo potuto vivere né nel dolore, perché qui apriamo più cose. Allora, da un lato abbiamo già anticipato la questione di narrazioni, chiamiamole digitali, che vengono spacciate autentiche, ma che autentiche non sono, e le persone, il pubblico, perché possiamo chiamarlo così, non ha sempre gli strumenti per capire che. Dall'altro lato, per la questione della narrazione, bisogna anche capire poi questo fenomeno, cioè non bisogna prendere parte, secondo me, e questo è un problema, cioè non dobbiamo né insistere sulla questione è una passeggiata, sto benissimo, né è un trauma, cioè sarà libera la donna in questione di decidere se è un trauma o non è un trauma, se è bello o non è bello, se non gliene frega niente, quindi non è né bello né un trauma, e anche questo in realtà non è chiaro, perché invece tu trovi persone che si occupano di queste cose, almeno nella vulgata anche social, e vanno più che altro verso una direzione. Perché poi qual è l'altro mega trend di oggi che investe non solo la questione dell'aborto, ma anche altre, e cioè il tentativo di fare una retorica o della patologia, ok, oppure della vittima. Quindi improvvisamente tutte sono vittime e queste devo portare. E questo è il classico esempio della questione della narrazione digitale, che in realtà è dominata da altri fini. Ok, e purtroppo dobbiamo capire come gestire questa cosa qua, se possiamo gestirla. Allora, nel tuo caso, da come anche hai raccontato la tua esperienza dell'account, eccetera, possiamo dire che hai preso la tua esperienza autentica, l'hai messa lì e ha funzionato. Però dobbiamo anche dire che il mondo digitale in cui tu hai cominciato probabilmente non è lo stesso mondo di oggi. Cioè, pensiamo anche solo banalmente all'utilizzo degli hashtag. Oggi non serve più di fatto. Faccio solo una correzione su questo, poi ti lascio. In realtà io prendo la mia esperienza e la collettivizzo. E anche, esatto. Il passaggio è esattamente questo, no? Quello che ti dicevo prima, poi ti lascio continuare perché è importante, perché ne parlavamo fuori. Quando ci siamo incontrati con Mauro, quando io vado in giro, le persone conoscono il progetto, ma non mi riconoscono. Nonostante io sia fisicamente tutti i giorni presente su quella piattaforma, sono visivamente presente perché ho bisogno di rassicurare, cioè di sapere che le persone che si interfacciano che con sei. Me sanno che sono io, ma le persone sì. Quando mi vedono per strada non mi riconoscono. Perché tu dai voce a una collettività, quindi evidentemente poi chi ti segue, ti ascolta, assorbe quello. Però poi ci sono anche tanti altri soggetti che non lo fanno e che vincono, tra virgolette, lo stesso. Cosa dobbiamo fare? E anche qui si apre la questione del call out e della denuncia. E qua apriti cielo anche qui. Allora, quindi un po', però la questione è molto più complessa, secondo me, di quella di prima. Cosa possiamo fare per... perché... una possibile soluzione sarebbe quella di dire diamo spazio alle esperienze autentiche, alla condivisione, e magari prima o poi, voglio dire, la gente si stancherà anche di seguire in maniera acritica, no? Anche questa nuova cosa che hanno, secondo me, se ci mettiamo a leggere i commenti delle persone che seguono questi account, secondo me queste persone nascono frustrate dalla società e ritrovano in quello spazio una rappresentazione che altrimenti non avrebbero, e quindi si sentono di far parte di qualcosa perché stanno difendendo un idolo. Allora bisogna capire, questa cosa non la puoi sistemare però con un account. E dobbiamo interrogarci, e qui si apre anche la grande questione del stare chiusi a casa e occuparsi di quello, oppure essere anche presenti, no? In tanto altro. Sì, allora io innanzitutto mi interrogo genuinamente, no, su che cosa significa vincere, no? Nel senso che è quello che mi apre, nel senso che da qualche parte il digitale, facevo sempre la battuta della GIF di Chiara Ferragna, pubblicità Pantene, sono un'imprenditrice digitale, no? Ormai è diventato, io a volte mi... Non che mi vergogni, però faccio fatica, nel senso che devo spiegare, da qualche parte vengo, no, a volte sovrapposta con persone che purtroppo, secondo me, e questo è un grande problema che va rilevato e comunicato, utilizzano strumentalmente la causa per portare avanti se stesse. Questa roba si chiama personal branding. Nel momento in cui invece tu ti fai, no, cornice di una causa che collettivizza, ti rendi conto che tu passerai e la causa rimarrà. Noi abbiamo un problema se per oggi, se oggi per parlare di aborto pensano di chiamare o di parlare di con tutto il bene, però là ci sarebbe da dire ma Bonino che se fa le foto col Papa, che Maggi la mette sul terrazzo col Papa, da Ciamaraini che per carità di Dio... Però diciamo, insomma, io ho letto delle cose di Dacia Maraini degli anni 70, le trovavo critiche al tempo, la trovo estremamente critica adesso, Barbara Alberti, no? Cioè c'è l'idea che quella roba coincida con quelle persone, io quello lo trovo estremamente problematico, così come l'idea di individuare l'idolo, no? L'idealizzazione delle persone, a volte le persone mi scrivono... Io ti sento come una persona cara, lo capisco, anche perché vivere un momento intenso insieme è intimo. È diverso dire ti sento come una mia amica, siamo amici, no? E lì ritorniamo sulla questione del per farla finita con la famiglia, che per me è stato un testo e continua ad esserlo, no? Un testo di accompagnamento. Da un lato ci dice un grande messaggio, gambe chiuse, porti aperti, cioè riprendiamo potere su quello che è il nostro desiderio, il nostro piacere, riprendendo Carla Lonzi, godiamo per il piacere di chi, abortiamo per il piacere di chi, ci puppiamo dei contraccettivi ormonali per il piacere di chi, li acquistiamo per il piacere di chi. E qui si apre un'altra grande questione. E dall'altro lei ci apre un invito: generare parentele postume per la rigenerazione della, del pianeta. Io ho trovato questo libro estremamente liberatorio, nel senso che da un lato con la famiglia non finisci mai di farci i conti, e lo dico da psicoterapeuta e da persona che sta in terapia da più di 10 anni. Puoi scegliere però di mettere punti, puoi scegliere di andare a capo, puoi scegliere di fraseggiare, puoi scegliere di mettere un punto e virgola. Angela Balzano dice sostanzialmente questo. Poi abbiamo avuto di tutto questo, e anche qui ritorniamo sulla narrazione digitale, su questa traduzione anche estremamente pop, estremamente borghese, no? Delle famiglie queer, cioè i gruppi WhatsApp del calcetto diventava famiglia queer, il gruppo dei vicini del pianerottolo era la famiglia queer, e tutti vestiti di bianco e tutti a stare in queste cose, e poi si è visto, diciamo, la fine che tutta questa roba ha fatto. Va benissimo. Ma forse la rigenerazione dell'idea di famiglia e di relazioni postume va perfettamente in linea, in allineamento e in concordia con quello di cui si parlava: la natura, i giardini, gli animali, le altre forme di vita umana, le relazioni, quelle che continuano a esistere, con cui scegli di mettere un punto, con cui scegli di mettere un punto e virgola. Narrazioni digitali, quindi per questo domando che cosa significa vincere, perché se per me vincere deve significare, e la butto un po' come provocazione, ma in realtà è la realtà dei fatti, che mi deve contattare qualcuno, vi faccio fare una risata. tratto da una storia vera. Mi contatta una volta un'agenzia, perché chi fa attivismo spesso ha le agenzie. Vi hanno mai pagato per andare a un'assemblea? Vi hanno mai pagato per mettere il logo a fianco a quello di Rifondazione Comunista e lì avrebbero fatto bene? No, invece pagano per stare sui social, perché poi c'era anche il grande adagio del qualcuno devo pagare l'affitto. Vi darò un'altra notizia straordinaria: non sono la figlia illegittima né di Dell'Utri né di Berlusconi, quindi l'affitto lo pago come tutti gli altri, posso scegliere come pagarlo. Mi contatta questa agenzia che a un certo punto mi dice: secondo me il tuo profilo va così, prova a edulcorare alcune cose, perché io dico, che ne so, cazzo, poi sono campana, quindi diciamo il colorito, ma non voglio fare gli stereotipi, femminismi terroni, ma diciamo che sostanzialmente mi... Però dice, se edulcori, magari ti contatti. Giuro, tratto da una storia vera, l'azienda che ti fa adottare l'ape. E io dico, scusami, ma in che senso mi fa adottare l'ape? Fai la collab, la DV per adottare un'ape. Ora, io l'ape la voglio adottare con tutto il cuore, vi giuro. Dall'ape dipende. Ma mo, perché devo cambiare il linguaggio mio? Perché mi arrivi l'agenzia che mi deve far adottare l'ape? Cioè, purtroppo, finita questa... Finta di adottare. No, e poi voglio adottare veramente, voglio che mi pungoli quel dito, no? Perché purtroppo l'idea di fondo è che le persone nei processi digitali non sono persone, sono engagement, sono numeri, sono cose. E se permettete, per me Gesù Cristo c'ha una forma precisa, vi racconto questa cosa. 2016, manifestazione degli indignados a Roma. Mi trovo mentre sto arrivando in corteo a Piazza San Giovanni, bloccata, black block da una parte, polizia dall'altra. Non si può andare dall'un da nessuna parte. Uno dei miei primi cortei, mi danno la soluzione per tutto: mettiti un limone in bocca. Quindi c'ero io che cammino terrorizzata con questo limone in bocca, pensando che sarebbe stata la soluzione a tutti i miei problemi. E a un certo punto, però, forse i fumogeni, ho capito poi con il senno di poi, agiscono un attimo con più forza della fetta di limone chiavata in bocca. Vedo una mano che plasticamente mi tira su, era il tizio degli assalti frontali che mi prende e mi tiene come la Madonna della Pietà a San Pietro, così su sta camionetta. E cito loro per una grande riappropriazione che nella mia vita continua ad essere una guida. La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Se io devo pensare che le persone che abortiscono e si rivolgono a me sono numeri, a me questa roba mi fa schifo. Se devo pensare di essere io un numero all'interno di un sistema capitalista che immagina la produzione, la riproduzione come riproduzione di esseri che poi verranno investiti nel sistema di produzione, posso scegliere per una cazzo di volta nella mia vita di sottrarmi da questa cosa e di lasciarmi una libertà che possa essere quella di stare e dire quello che cazzo mi pare, oppure no? Evidentemente quella da qualche parte è stata la mia scelta, perché voi non dovete mai pensare, e questa è la verità, che chi sta là sopra e te fa la DV delle goccine al CBD, che per carità, io mi ci faccio il cibo col CBD, il bidet, cioè, ma figuriamoci, o lo shampoo o la roba, lo fa perché sei tu, no? Quella gente ti va a vedere quanti numeri, quante visualizzazioni, perché tu pensi che stai seguendo la vita normale della gente che sta prendendo, e Serena Mazzini questo lo racconta benissimo, un cazzo di telefono, lo stai posizionando e stai inventando e stai inscenando creando una scena, fingendo di rendere le persone partecipi di qualcosa di reale. Questa roba è folle, questa roba non può stare a numero, e quindi a me di partecipare, lo dico molto chiaramente, rispetto anche a tutto quello, no, che è il lavoro che viene portato avanti all'interno di un ricircolo, che è questo, perché se poi parli, non parli, scegli, non scegli, a me fortunatamente né Chiara Valerio né Loredana Lipperini né qualcun altro mi mette il piatto a tavola a fine mese, né mi pagano l'affitto, né mi devono prendere da mangiare al cane. Quindi, ringraziando il Padre Eterno, a me di avere a che fare con sta gente, o di dover dire delle cose, o di dover dire: sorella, io ti credo, ma sempre fino a quando? Poi non viene invitato l'abuser, che può essere definito tale fino al terzo grado di giudizio, per carità di Dio. Lì allora lo spazio va bene. E come funziona? Questa non è libertà. E allora le narrazioni digitali sono le narrazioni che scegliamo di avere. E chiudo con una riflessione: l'aborto è quello che è per ogni persona. Perché nella vita di tutte le persone esistono gradiali di esperienze emotive infinite. Un lutto per una persona può essere doloroso, può essere gioioso, può essere doloroso e gioioso, può essere nostalgico, può essere negli anni 200.000 cose. Per quale cazzo di motivo, quando si parla di riproduzione, allora il vissuto è unico? Perché la maternità è bellissima e l'aborto è bruttissimo? Perché l'eteronormatività è bellissima e la famiglia naturale è bellissima e tutto il resto è uno schifo? È una roba estremamente complessa, e sapete quanto è estremamente complessa? E con questo chiudo, con il fatto che Simone Pillon a questo libro, per commentarlo su Facebook, ci è arrivato dopo più di 10 anni. Non dico che abbia letto tutto il libro, ma forse al primo capitolo ci si è fermato e due critiche ha pensato di farle. La complessità alle destre costa 10 anni, facciamo che a noi provi a costare almeno un attimo meno. Grazie. Allora, chiudiamo con altre note di positività, secondo me. Ti faccio una domanda personale, e di raccontarci le principali conquiste che hai avuto fino adesso, perché anche a proposito di mappature c'è anche una notizia molto fresca, no? Sì. Secondo me Beh, si può dire. Sì. No, niente. Allora, conquiste... Ah? No. Non era un video, era una foto per... Almeno prendimi bene, mi sono rifatta il naso, c'è un motivo a tutto questo, e cioè essere presentabile in questi momenti. Allora, conquiste di questi anni, a parte tutte quelle che abbiamo quotidianamente, io ho fatto anche una scelta, che è una scelta di riappropriazione degli spazi della politica istituzionale, nel senso che da qualche anno io collaboro, in particolare con l'onorevole Gilda Sportiello del Movimento 5 Stelle, con cui stiamo portando avanti delle istanze. Il primo traguardo raggiunto è stato quello dell'ottenimento dei dati sull'applicazione della 194. Abbiamo chiesto insistentemente per 11 mesi di ottenere dei dati che sono quelli del 2022, che per alcune regioni rimangono fermi al 2021, che vengono invece raccontati come se fossero l'attualità. Apro e chiudo parentesi: la 194, che è la legge che dal 1978 concede l'aborto, non lo legittima, andrebbe cambiata da capo a piedi, e i consultori andrebbero completamente espropriati e recuperati come spazi transfemministi e non come luogo di medicalizzazione, patologizzazione, cura e certificazione, perché penso che le certificazioni vadano usate come carta per pulirsi il culo a un certo punto, invece diventano questo strumento meraviglioso di potere e di coercizione, per cui decidono se puoi o se non puoi. Quindi abbiamo ottenuto questi dati a suon, ripeto, di interrogazioni, interpellanze, lavoro di massa critica, lavoro con in particolare cito Federica Pennelli e Simone Alliva di Domani, che hanno seguito e continuano a seguire tante questioni. Abbiamo portato una proposta di legge sul piatto, perché vi ricordo che il 2 gennaio in una parrocchia di Bari è morto un neonato che era stato lasciato in quelle che vengono definite, qui i linguaggi persistono, culle per la vita, perché c'era una culla termica evidentemente mal gestita, ma soprattutto che era collegata al numero di un parroco che forse aveva capito che Gesù Cristo e il Padre Eterno fossero lui, e qualcuno non gli ha spiegato che invece era soltanto un suo vicario. Per la regolamentazione il Ministero della Salute ci ha risposto che non ci sono dati. Non sappiamo in Italia dal Ministero della Salute quante culle termiche esistano, a quali numeri di telefono si riferiscano, e soprattutto non c'è una depenalizzazione rispetto a quello che è il reato di abbandono di minore. Quindi se una donna sceglie, una persona, un caregiver, di lasciare un minore in una culla termica, tecnicamente è perseguibile per il reato di abbandono di minore, così come sta accadendo. E quindi abbiamo chiesto questa cosa, e a seguito c'è una proposta di legge, ve la diciamo lascio lì, che nasce proprio da un ascolto e da un lavoro con persone non vedenti e ipovedenti, che riguarda la possibilità quantomeno di poter inserire le date di scadenza sui contraccettivi. Tra le mille cose che ho fatto nella mia vita, non chiedetemi perché ho un diploma in lettoscrittura braille, so fare la figa, ve giuro, so fare la figa che dico: oh, ma tu lo sai come si leggono i numeri in ascensore? Questa cosa mi ha portato scopate incredibili. No, non è assolutamente mai vero, però lo so fare. E parlando con una persona che mi segue, una delle cose che sapevo è che, per esempio, sui farmaci c'è il nome del farmaco ma non c'è la data di scadenza. Quindi con Gilda Sportiello stiamo preparando un'interrogazione per chiedere che vengano almeno inserite le date di scadenza per permettere una maggiore accessibilità. L'Istituto Superiore di Sanità, grazie in realtà però al lavoro non di questo governo, ma non vi dirò niente di nuovo, ma del precedente, decide di creare una mappatura nazionale dei punti IVG. Ora, questa mappatura ha tanti ma, perché vengono segnati alcuni luoghi che nei fatti non sono attivi. Quindi diciamo l'idea di partenza è che da domani ci mettiamo al telefono e si chiamano tutti, anche perché viene fatta una mappatura ma non vengono inseriti i numeri di telefono, non vengono inseriti le giornate in cui si può andare, non viene inserito niente. Quindi noi ci ricerchiamo e cerchiamo un attimo di capire, e soprattutto, cosa assolutamente improbabile, immaginatevi, questa fa ridere, ma arriva un'email dell'Istituto Superiore di Sanità, e io penso che sono le email fake delle poste, sapete, quelle delle poste che ti vogliono truffare, c'hanno tutto il sito uguale, per chiedere di poter inserire all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità e dunque del Ministero della Salute anche il riferimento della piattaforma come polo, diciamo, di supporto, in particolare per persone con background migratorio. Per me è un grande onore, per tutto quello che è il lavoro delle piattaforme di mutualismo dal basso, per me è un grande fallimento che lo Stato senta il bisogno di inserire una piattaforma che si occupa di quello di cui si dovrebbe occupare lo Stato. E tutto questo è paradossale, di tutto questo mi vergogno, ma di tutto questo sono anche molto fiera e orgogliosa. Grazie. Domande, interventi? O avete fame? E soprattutto non finiremo per mangiare i nostri cani. Mai. Mai, vabbè, no, su però, sta roba però, del cane. Però, io, mangiatevi quelle degli altri, ma il mio non si mangia, ma manco. Ma ecco, mangiatevi tra di voi prima, ma il cane mio no. Dai, non finiremo per mangiare i nostri cani e neanche più tutte le altre specie. Ma i gatti viventi. Sì. I gatti? I gatti? Avevo capito male, scusate. domande, cose, siete stanche. No, io sono una curiosità, così, la butto lì. Ho paura. No, non avere paura. No, a parte il fatto che appunto porti avanti un lavoro assolutamente prezioso, con il tuo profilo. Dario Alia, una curiosità. No, vabbè, non c'è bisogno di vedere. È la radio, l'ha deciso Gulli. No, dovete dare il microfono. Eccolo, chi fa i podcast impazzi. Cringe. A parte il fatto appunto che apprezzo il lavoro che fai di divulgazione, però mi chiedo appunto sempre in questo scenario che hai ben descritto, no? Di anche capitalizzazione e cooptazione di tematiche non soltanto legate appunto all'aborto, ma anche tematiche di genere, femminismo, queer studies, cioè come si può contrastare tutto questo? Perché io nel mio piccolo questo lo contrasto proprio, cioè, in maniera molto becera, cioè a un certo punto proprio quasi insultando questa gente che coopta queste tematiche per trarne un beneficio personale, perché sono tematiche che io sento, vivo nella mia pelle e a cui credo e penso che sia necessario fare un'operazione di divulgazione. Però mi rendo conto che questa operazione di divulgazione che viene fatta magari sui social spesso deve andare a contrastare un'operazione di pseudo divulgazione che in realtà è puro personal branding, perché è sostenuta da più persone. Esatto, perché è sostenuta in un sistema. La cosa fondamentale è questo, che riescono a coalizzarsi, quindi noi che andiamo avanti dicendo non siamo più il paesello, abbiamo superato le dinamiche delle nostre nonne, in realtà tutto viene replicato nei social, perché quell'amichettismo lì esiste, e se tu osservi e sei del mestiere e riesci a individuare le dinamiche, vedi che tutto è collegato e che fanno squadra. Assolutamente, infatti il problema a mio avviso è sistemico, nel senso che il capitalismo ormai ha cooptato qualsiasi cosa. Cioè io mi ricordo quando nel 2016-17 cominciavo a occuparmi di queer studies, e in Italia perlomeno, perché già negli Stati Uniti, vabbè, parliamo di una roba che era già da anni, no, di cui si parlava, però ancora in Italia questa cosa, per esempio, non so, nelle case editrici non era minimamente diffusa, nessuno interessava. Adesso quando io vado, non so, alla libreria Feltrinelli di Corso Buenos Aires e mi vedo il reparto LGBTQ+ e tutti i libriccini, no, tipo editi da Feltrinelli, Mondadori, Rizzoli, e parlo una persona che lavora per un gruppo editoriale, perché io lavoro per Mondadori, ma so quanto questa cosa appunto viene cooptata e ormai è normalizzata dentro un preciso sistema. Mi chiedo, ma il lavoro della divulgazione, cioè, come fa a contrastare queste dinamiche di potere molto forti e pervasive che vanno a inficiare nella stessa qualità poi della divulgazione che viene fatta? Perché poi di fatto ti ritrovi nei panel, negli incontri, la gente invitata che ha fatto il libriccino, fa il contenuto social, il reel, banalizzando dei temi e degli argomenti che per noi sono importanti, su cui lavoriamo, ma di fatto avendo spazio, voce, megafoni che poi causano anche disinformazione piuttosto che informazione. Quindi la mia domanda è, se c'è una domanda, è nel tuo piccolo come contrasti questa cosa, oltre al tuo appunto lavoro di divulgazione e condivisione che fai? Non ho una risposta, ma chiuderò di fatto come ho iniziato, pensandoci, mi veniva molto da ridere, perché una pagina TERF, Femministero mi pare si chiamasse, insomma, dopo tutta la questione... dopo tutta la questione Udi, no, hanno ricondiviso delle mie storie dicendo è arrivata l'influattivista, l'influencer, i numeri, le cose, e ho detto guardate, avete trovato veramente la persona sbagliata, tra le altre pensano a scrivere libri, io penso di essere l'unica a non mai scritto un libro, cioè nella saggistica, ma lo faremo. Ma nella saggistica femminista che ha avuto, no, come dicevi tu, questo boom negli anni d'oro, per cui prendevano le fotocopie di Wikipedia e diventava tutto il saggio, no, partendo da quello che è stato Manuale per ragazze rivoluzionarie di Giulia Blasi, che secondo me ha segnato, no, da un lato una pietra miliare, dall'altro un decadimento rovinoso e scivoloso rispetto a tutto quello che era diventato saggistica femminista, che poi è un mercato che, ringraziando Dio, si è esaurito, ma vai a vedere che non ritorni con la stessa virulenza. Ha detto: guarda, proprio hai sbagliato portone, cioè se tanto volevi da quello non ce l'hai. Quindi in maniera pecoreccia ho iniziato, in maniera pecoreccia continuo. La mia forma di contrasto è l'esistenza, lo è sempre stato, no? Però io diciamo, uno, nel conflitto non ci campo benissimo, faccio questa confidenza, potrebbe sembrare il contrario, ma io non amo particolarmente confliggere, vado molto a fatica su questa cosa, e quindi ringrazio la gente che mi blocca prima di dover... Ringrazio Claudia, Fauzia, no scherzo, per chi mi blocca, perché in maniera tale che mi dà una tranquillità, ma esistere è da qualche parte la mia forma di resistenza, per poter anche dire, forse sembrerò superba su questo, c'è un modo alternativo per poter stare, non è necessariamente, no, forse tutta quella roba E qui torniamo anche a quello che volevo dire inizialmente, a parte il fatto che Leopardi è l'eroe antimoderno, ma il conflitto può essere, deve essere uno strumento, ma non può essere la soluzione finale. Sì. Cioè, è questo il punto anche del tentativo di cercare narrazioni, come dire, che mantengano una certa tradizione, passatemi il termine. C'è stato qui Tim Ingold, che comunque ci ha proposto, a partire dal suo libro Il futuro alle spalle, di come dire, vedere i nostri antenati di fronte a noi e di creare questo legame con le generazioni. E torniamo anche alla questione di come combattere le narrazioni fittizie oggi digitali. Certo che se la persona cresce nell'era delle narrazioni digitali, non avendo il legame col passato, quindi veramente parlo dell'esperienza dei nonni, dei bisnonni e quant'altro, delle nonne e delle bisnonne, e vive e cresce credendo che il mondo digitale sia reale, allora è ovvio che ci casca, è ovvio che non ha l'antidoto. Detto questo, ciò non significa che l'account autentico non faccia il suo, anzi, quindi da un lato dobbiamo credere, ma secondo me non è solo una credenza, che comunque le esperienze di autenticità vincono. Dall'altro lato dobbiamo renderci conto che non possiamo lasciare il digitale in balia di se stesso e che dobbiamo comunque continuare a vivere le collettività reali al di fuori della questione digitale. Ma anche perché poi portano dei risultati, tra virgolette, cioè nel senso che non c'ho, diciamo, tra i follower la comunità del Bangladesh, mo dico perché sono quelli che si compravano gli account fake che erano tutte, cioè nel senso, da qualche parte forse le persone riescono anche, no, oggi forse un po' di più a individuare certe cose, recuperare la storia è fondamentale per me, tant'è che io consiglio sempre libri che in realtà sono fuori edizione, Giannini Belotti, Anna del Boboffino, a Milano c'è la possibilità alla libreria di via della, no, la libreria la biblioteca di via del Senato, di proprietà di Dell'Utri. Mi sono trovata col figlio di Dell'Utri che urlava al telefono mentre cercavo di consultare Il processo degli angeli, che è il libro di Gigliola Pirobon, no? Che è stata la prima donna processata in Italia per aborto clandestino, ed è consultabile lì, cioè cerco sempre di proporre, no? Oltre che ovviamente Meltemi, un'editoria che da qualche parte sia un attimo bypassata. Chiudo però dicendovi anche che fino a domani trovate il 30% di sconto su Pomello. No, poteva essere con il codice ho abortito. Sarebbe stata bella come chiusura. Scrivetemi per il codice sconto. Comunque volevo dirti una cosa. per me sei sempre stata un modello. Grazie.